I cipressi che a Bolgheri, alti e schietti, van da San Guido in duplice filar, quasi in corsa giganti giovinetti, mi balzarono incontro e mi guardar. Mi riconobbero e bentorni omai, bisbigliaron ver me col capo chino. Perché non scendi? Perché non ristai? Fresca è la sera e a te noto il cammino. Oh, siediti alle nostre ombre odorate, ove soffia dal mare il maestrale. Ira non ti serbiam delle sassate tue d'una volta, o non facean già male. Nidi portiamo ancor di rusignoli, de perché fuggi rapido così? Le passere la sera intrecciam voli a noi d'intorno ancora. Oh, resta qui. Bei cipressetti, cipressetti miei, fedeli amici d'un tempo migliore, oh, di che cuor con voi mi resterei? Guardando io rispondeva, oh, di che cuore? Ma cipressetti miei, lasciatemi ire, ora non è più quel tempo e quell'età. Se voi sapeste, via non fo per dire, ma oggi sono una celebrità e so leggere di greco e di latino e scrivo e ho molte altre virtù. Non son più cipressetti un biricchino e sassi in specie non ne tiro più e massime alle piante. Un mormorio pedubitanti vertici ondeggiò e il di cadente con un ghigno pio tra i verdi cupi roseo brillò. Intesi allora che i cipressi e il sole una gentil pietade avean di me, e presto il mormorio si fe parole. Ben lo sappiamo, un pover uom tu sei, ben lo sappiamo, e il vento ce lo disse, che rapisce degli uomini sospir, come dentro al tuo petto eterne risse ardon che tu ne sai, ne puoi lenir. Alle querce da noi qui puoi contare l'umana tua tristezza e il vostro duol. Vedi come pacato e azzurro è il mare, come ridente a lui discende il sol. E come questo caso è pien di voli, come allegro de passeri il garrire. A notte canteranno i rusignoli, rimanti, e i rei fantasmi, oh, non seguire. I rei fantasmi che da fondi neri dei cuor vostri battuti dal pensier guizzan come dai vostri cimiteri, putride fiamme, innanzi al passegger. Rimanti, e noi dimani a mezzo il giorno, che delle grandi querce all'ombra stan, ammusando i cavalli e intorno intorno tutte silenzio nell'ardente pian, ti canteremo noi cipressi i cori che vanno eterni fra la terra e il cielo. Da quegli olmi le ninfe usciran fuori, te ventilando col lor bianco velo. E pan l'eterno che sull'erme alture a quell'ora e nei pian solingo va, il disidio, o mortal, delle tue cure nella diva armonia sommergerà. Ed io, lontano, oltre Appennin, m'aspetta la Titti, rispondea, lasciatemi ire, e la Titti come una passeretta, ma non ha penne per il suo vestire, e mangia altro che bacche di cipresso, né io sono per anco un manzoniano che tiri quattro paghe per il lesso. Addio, cipressi, addio, dolce mio piano. Che vuoi che diciam dunque al cimitero dove la nonna tua sepolta sta? E fuggiano e pareano un corteo nero che brontolando in fretta va. Di cima al poggio allor dal cimitero, giù dei cipressi per la verde via, alta, solenne, vestita di nero, parvemi riveder nonna Lucia. La signora Lucia, dalla cui bocca tra l'ondeggiar dei candidi capelli, la favella toscana che si sciocca nel manzonismo degli stenterelli, canora discendea col mesto accento della Versilia che nel cuor mi sta, come da una sirventese del 300, piena di forza e di soavità. Oh nonna, deh com'era bella quando ero bimbo, ditemela ancor, ditela a quest'uom savio la novella di lei che cerca il suo perduto amor. 7 paia di scarpe ho consumate, di tutto ferro per te ritrovare, 7 verghe di ferro logorate per appoggiarmi nel fatale andare, 7 fiasche di lacrime ho colmate, 7 lunghi anni di lacrime amare. Tu dormi alle mie grida disperate, e il gallo canta e non ti vuoi svegliare. Deh, com'è bello, nonna, e come vera è la novella ancor, proprio così. E quello che cercai mattina e sera, tanti e tanti anni invano, è forse qui. Sotto questi cipressi, ove non spero, ove non penso di posarmi più. Forse nonna è nel vostro cimitero, tra quegli altri cipressi ermo lassù. Ansimando, fuggì alla vaporiera, mentre io così piangeva entro il mio cuore. E di polledri una leggiadra schiera annitrendo correa lieta al rumore. Ma un asin bigio, rosicchiando un cardo rosso e turchino, non si scomodò. Tutto quel chiasso ei non degnò d'un guardo, e a brucar serio e lento seguitò.